Italia in controluce. 13:34, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento su Radio 24 con la cronaca, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. 23 maggio 1992, oggi ma esattamente 19 anni fa, 5 persone a bordo di un'auto in viaggio dall'aeroporto di Palermo verso la città. Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. Nei pressi dello svincolo di Capaci l'auto salta in aria perché qualcuno ha messo dell'esplosivo ai bordi dell'autostrada. Muoiono tutti sul colpo. È la strage mafiosa di Capaci, una delle più gravi e più tragiche stragi della storia italiana. Sabrina Pisu ci aiuta a ricordare. Ricordo lo sguardo di nostra madre, uno sguardo attonito, proprio di ghiaccio, al quale era stato detto che sicuramente era accaduto qualcosa di grave a suo figlio, ma che sicuramente cercava di allontanare quella tragedia, cioè sperando che magari Antonio quel giorno fosse da qualche altra parte, non lì poi come si è saputo dopo a Capaci. Quella morte l'ha segnata molto, ma soprattutto credo che nostra madre sia stata segnata anche dal fatto di essere sopravvissuta a suo figlio. Oggi la mamma non c'è più, da 10 giorni è deceduta. Mi creda, lei lentamente è morta dentro, e forse ci conforta il fatto che dopo tanti travagli e sofferenze è nel sonno dei giusti. Matilde è la sorella di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone. Antonio aveva solo 29 anni, aveva cominciato giovanissimo, aveva cominciato appena a 24 anni, aveva fatto una scelta difficile per quegli anni. 19 anni fa decidere di scortare un uomo così ad alto rischio era una scelta difficilissima. Prima di morire rilasciò un'intervista dove proprio parlava del suo lavoro. Scortare un uomo che si dedicava e cercava di creare una situazione diversa a Palermo gli permetteva di stare bene con se stesso. Credo che fosse veramente una dedizione alta. Quell'uomo ad alto rischio era il giudice Falcone. Antonio Montinaro è con lui il 23 maggio 1992 sull'autostrada Trapani-Palermo quando alle 17:58 un'esplosione di 5 quintali di tritolo fa saltare in aria la Fiat Croma blindata dove il magistrato viaggiava con sua moglie Francesca Morvillo e le due auto di scorta. Con Antonio ci sono anche altri due giovani agenti, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Non bisogna dimenticare i loro nomi e le loro storie di uomini, non di eroi. Di maggio, di fronte al monitor della televisione, la mamma cercava di carpire, di sentire il nome di suo figlio, il nome degli altri ragazzi, poi questo non avveniva e il suo volto insomma si trasformava in un velo di tristezza, perché per una madre credo fosse importante sentire il suo nome. Noi infatti li ricordiamo uno a uno, un modo per tenerli in vita. Per noi non sono i ragazzi delle scorte, per noi sono Antonio, Vito e Rocco, Francesca e Giovanni. Sono uomini normali, sono uomini che avevano una famiglia, avevano le loro emozioni, avevano paura, sicuramente avevano paura, non erano dei vigliacchi, ma avevano paura perché la paura è un sentimento umano. Mai pensare che loro siano stati degli eroi, sono state delle persone che si sono messe in gioco, hanno fatto la propria parte, perché considerarli eroi potrebbe fornirci l'alibi per non fare nulla. Quel 23 maggio Falcone, direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi per andare con la moglie a Palermo. È sempre più isolato, ma trova la forza nelle sue idee, racconta la sorella Maria. Mi diceva proprio negli ultimi mesi, bisogna far presto perché è in pericolo la democrazia. Non solo aveva scoperto la mafia, si era reso ancora più conto del grande connubio fra mafia e politica, tanto da dire che la politica era addirittura nelle mani della mafia. Lui negava un terzo livello di politici che potesse gestire la mafia, ma diceva ancora peggio, è la politica che è nelle mani della mafia. È stato avversato da tutto, dai magistrati, dalla politica, non ha avuto l'appoggio soltanto che nella forza delle sue idee. I primi passi da magistrato a Trapani, poi dalla fine del 1978 Falcone è al Tribunale di Palermo. Il passaggio dalla magistratura civile a quella penale avviene sotto la guida del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che sarà ucciso per mano di Cosa Nostra nel 1982. È la reazione sanguinaria della mafia che un anno dopo mette a tacere anche il segretario regionale nazionale del Partito Comunista Pio La Torre e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nell'83 a Palermo arriva Antonino Caponnetto, il padre del pool antimafia, di cui fa parte anche Paolo Borsellino. Il lavoro di Falcone si fa sempre più difficile, segnato da tradimenti e da una grande solitudine. Questo è quello che mi addolora principalmente, il pensiero che mentre lui lavorava proprio per le istituzioni, per far sì che si potesse liberare questo sud da questa criminalità che la opprime, tutto il suo sforzo e sacrificio della vita, e poi sapere che persone che magari gli stringevano la mano invece tramavano contro di lui. Il pensiero che finti amici complottavano mentre lui lavorava per gli altri. Riusciva a trovare in sé tale forza, sentendo sempre che era della parte giusta, forse anche per l'educazione familiare. Io ricordo sempre che nemmeno da piccolo piangeva, la mamma gli diceva che gli uomini non dovevano piangere. Aveva un carattere molto forte, per cui pur soffrendo continuava ad andare avanti. Falcone introduce un metodo investigativo innovativo, una strategia coordinata. Il risultato straordinario è il maxi processo con 400 imputati, tra cui il vertice di Cosa Nostra. Il processo ha inizio nel febbraio del 1986 a Palermo, nell'aula bunker del carcere del Luciardone, e si chiude nel dicembre del 1987 con 19 ergastoli per i padrini, altri 339 imputati, condannati a quasi 3.000 anni di carcere complessivi, determinanti per conoscere la struttura della cupola, le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta, catturato 4 anni prima. E ricordo grande entusiasmo quando Buscetta cominciò a parlare, e soprattutto perché lui ebbe la conferma di tutto quello che già aveva pensato. Buscetta fu praticamente riconoscere che tutto il suo lavoro, il lavoro fatto, andava nel giusto segno. Quel momento, la grande soddisfazione di aver veramente scoperto delle cose che mai nessuno aveva saputo. La reazione contro Falcone non si fa aspettare, racconta Giuseppe Ayala, pubblico ministero del maxi processo di Palermo. Nel gennaio 88, un mese dopo la sentenza del maxi processo, che rappresenta ancora oggi il punto più alto della risposta dello Stato alla criminalità mafiosa, all'indomani il Consiglio Superiore della Magistratura deve scegliere il nuovo capo dell'ufficio istruzione, che è un ufficio che ha raggiunto questo incredibile, eccezionale risultato, e il candidato a prendere il posto di Caponnetto, che era tornato a Firenze, ovviamente era Falcone. E invece Falcone venne bocciato e al suo posto fu mandato un magistrato che notoriamente era contrario al pool. Secondo lui non ci poteva essere un gruppo di giudici istruttori che lavorassero assieme alla stessa istruttoria. Il CSM, facendo questa scelta, manda a guidare quell'ufficio un magistrato che annullò il pool antimafia. Borsellino è trasferito a Marsala. Falcone è chiamato a Roma dal ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli per guidare la direzione affari penali, ma il suo impegno contro la mafia continua. Il 20 giugno 1989 il giudice scampa miracolosamente a un attentato dinamitardo alla sua villa sul litorale dell'Addaura. La strage di Capaci non può essere disgiunta da quell'attentato, dice Francesco Lalicata, giornalista della Stampa e amico di Falcone. I due episodi, seppure distanti l'uno dall'altro di 3 anni, rappresentano un unico filo. Falcone cominciò a essere attaccato con la famosa lettera del Corvo, l'anonimo che lo accusava di terribili nefandezze, poi passando per l'attentato della Daura, che non riuscì solo perché il telecomando in quell'occasione non funzionò, questo rappresentò il secondo tentativo di farlo fuori, e alla fine nel 92 con 500 kg di tritolo sono riusciti a liberarsi di un nemico che, a mio parere, se fosse rimasto vivo li avrebbe battuti. La Cassazione il 18 settembre 2008 ha confermato tutte le condanne per i boss che con Totò Riina avevano ordinato la strage. Delle 12 condanne, 10 sono ergastoli. Ma ad uccidere Giovanni Falcone non è solo la mafia di Riina. È la mafia che ha ucciso Giovanni Falcone. È la mafia di Totò Riina, ma è anche tutto quello che sta attorno alla mafia di Totò Riina. Nel senso che Cosa Nostra, senza lo straordinario apporto di una serie di negligenze, paure, viltà, non sarebbe questo pericolo così incombente e così invincibile. Cosa Nostra senza la politica, i soldi e le connivenze non sarebbe questa organizzazione criminale unica nel mondo, capace appunto di essere completamente invasiva nei confronti della libertà individuale delle persone. Se pensiamo che tutto quello che è avvenuto dal 92 con lo stragismo mafioso, un'organizzazione criminale ha pensato di poter condizionare la vita e le leggi di uno Stato democratico. Nel 19° anniversario della strage di Capaci resta la testimonianza di un uomo che viveva con normalità la sua vita blindata. La storia di Giovanni, Francesca, Antonio, Rocco, Vito è la storia di uno spirito di servizio che non è mai venuto meno, come dice il giudice Falcone nel corso di una delle sue ultime interviste. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Queste dunque le parole semplici e per certi aspetti sorprendenti di Giovanni Falcone, ucciso con la strage di Capaci 19 anni fa esatti. Alle 13:44 termina qua questa edizione di Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete scriverci, raccontateci le vostre storie, controluce@radio24.it. siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Buona giornata.